Chiudi gli occhi ed entra dentro gli universi paralleli. Con il silenzio finalmente cercherò quello che non ho trovato ancora intorno a me, negli universi lontani viaggerò come se.